Sei stata la parte migliore della mia vita. Sei stata la parte migliore della mia vita. Sei stata la parte migliore della mia vita. Sei stata la parte migliore della mia vita. Solo nella metropolitana giro scalzo, sono in bilico, sono un indiano. Spando seduto su un'altalena, ma poi rimbalzo e mi ritrovo lontano. Spiedito come un cuscino all'ospedale, tra mosche e zanzare e candele sull'altare. Baratto con quello che mi rimane, distante dal rispondere, ancora di più dal domandare. Cammino sulla scia di una mongolfiera, cammino tutto il giorno, cammino fino alla sera. Con la bocca e la faccia sporche di catrame, c'è un cane che mi guarda, mi fissa, sembra chiedere chi dei due è l'animale. Volo via, dimentico. Volo via, rammento. Volo via, torno qui. Nell'universo gioco, mi perdo, ti cerco. Terra lontana, terra che sconfini, luna che con le tue calze a rete per strada seduci. Vento bastardo, vento criminale, vento portami indietro. Nella mia tribù voglio tornare. Bisognerebbe chiederlo all'alto, bisognerebbe chiederlo a loro. Qual è il fine, qual è lo scopo di questo sporco lavoro? Senza vertigini, niente paura, niente mezze misure. Senza invito, presentarsi alla festa, fare un inchino con la testa e salutare. Volo via, dimentico. Volo via, rammento. Questo biglietto è solo per dire che mi dispiace di tutto. Sei stata la parte migliore della mia vita e non sono riuscito a capirlo. Non ti sto chiedendo un'altra occasione. Solo il tuo perdono. Con amore.